cambia il vento, la tua ironia, con il tempo e le stagioni, con il sole e le emozioni. Sei come un albero in fiore, primavera ti migliora, tu dai meglio di te, sei capace di sorprenderci. Sono solo quattro accordi che mi servono, sono solo quattro accordi che io cercherò, sono solo quattro accordi e poi me ne andrò, sono solo quattro accordi e poi svanirò. Guarda ogni tanto la luna, è bello sai specchiarci dentro, cerca tra le tue emozioni, troverai anche dei sogni. Gioiosa come le stelle, se Lorenzo le chiama, mi strabiliano gli occhi in un sublime casche, casche! Sono solo quattro accordi che mi servono, sono solo quattro accordi che io cercherò, sono solo quattro accordi e poi me ne andrò, sono solo quattro accordi e poi svanirò. Adesso sono sicuro, ti ho sentita sognare, l'ho intuito dal cuore, dal suo accento elevare. Sono solo quattro accordi che mi servono, sono solo quattro accordi che io cercherò, sono solo quattro accordi e per me ne andrò, sono solo quattro accordi e poi svanirò. Sono solo quattro accordi che io cercherò.